invece prestato il mio crick. Passo sotto scala. Posso fare se anche oggi sono un po' sfigato, per superare questo mio periodo un po' sfigato, spiegami perché io non sono insieme a te. Cosa posso fare per restare qui con te? Che oggi sono un po' sfigato, oh, per superare questo mio periodo un po' sfigato, spiegami perché io non sono insieme a te.